Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e buon lunedì, che come ogni lunedì è dolce per qualcuno e per qualcun altro invece è amaro, particolarmente amaro. È dolce per il Genoa, per esempio, che si è issato in maniera sempre più decisa al quarto posto e ha sempre la Fiorentina a ruota, ma ha staccato a questo punto in maniera abbastanza netta la Roma. Sentiamo Gasperini. Partita non facile perché, ripeto, loro magari non erano molto pericolosi, però in un ottimo possesso, erano rapidi in alcuni giocatori e magari non riuscivano a concludere in modo particolarmente pericoloso rispetto a noi, che invece quando ci affacciavamo in area abbiamo avuto delle occasioni molto importanti. E poi dopo il secondo tempo però abbiamo alzato il ritmo sicuramente. È vero, c'è stato questo episodio che io non ho ancora visto, probabilmente non so se era rigore o meno nell'azione successiva, come spesso succede nel calcio, abbiamo fatto gol noi e lì la partita è andata sicuramente in discesa, però era una partita dove due squadre si affrontavano per cercare di vincere, questo è indubbio. Penso sia stata anche una bella partita rovinata e che non va rovinata esclusivamente da alcune polemiche. Beh, è sempre elegante, no? Evitare di rovinare le partite con le polemiche quando le polemiche riguardano gli altri, nel senso che nella partita del dare e dell'avere, ieri certamente è stata l'Udinese che ha dato attraverso una decisione assolutamente incomprensibile di Airoldi. Dolce la domenica genoana, amarissima quella granata, perché il Torino è più che mai in zona retrocessione, la vigilia probabilmente di un altro esonero che questa volta toccherebbe a Novellino. Non è stata presa ancora nessuna decisione al momento. Sentiamo il commento di Novellino su questa netta, secca sconfitta che Torino ha subito da una peraltro eccellente Sampdoria. Il lavoro non sempre riesce, no? Deve bene, però credo che oggi la squadra ha patito un attimino alcune grandi giocate di Cassano, ecco, però non, siamo lì, siamo a due punti, forse il derby ci ha un po' mentalmente condizionato a livello fisico, di testa anche, non riusciamo a essere noi stessi, perché anche oggi abbiamo preso il 2-0, sul 2-1 abbiamo pareggiato, poi abbiamo creato una bella situazione del 2-2, poi niente, facciamo fatica a fare gol, finalmente Bianchi si è sbloccato, è un giocatore secondo me che sicuramente farà i gol che ci permette di rimanere in Serie A, perché la squadra oggi ha patito le grandi giocate di Cassano. Il problema del gol mi pare il problema principale con cui il Torino si misura dalla prima giornata, poi ce ne sono altri, insomma, e questo spiega questa situazione abbastanza, cioè, certamente difficile, abbastanza drammatica, al contrario del Chievo che con questa ulteriore seconda vittoria consecutiva, a parte che stavo guardando le statistiche del giorno di ritorno, il Chievo sarebbe quarto in classifica, perché calcolando i punti soltanto del girone di ritorno, Inter 26, Juventus 22, Milan 18, Chievo, Cagliari e Fiorentina 17, quindi è un rendimento non solo non da retrocessione, ma addirittura da zona UEFA, sommato merito di Di Carlo che ha certamente dato una svolta al campionato della squadra veronese. Il Chievo attualmente può vantare 6 punti di margine sulla zona B. 6 punti di margine a 7 giornate dalla fine, certamente non significa ancora salvezza, però vuol dire esserci arrivati abbastanza vicino, sicché la retrocessione ormai a questo punto realisticamente riguarda 4 squadre: Regina, Lecce, Torino e Bologna, dal basso verso l'alto, e 3 di queste 4 squadre retrocederanno. Sentiamo la sparata che Leonardi, direttore generale dell'Udinese, ha fatto sul conto di Airoldi, arbitro di Genoa Udinese. Non si tratta di scontento, cioè qui bisogna fare uno strappo alla regola, perché mi ero imposto per da un anno e mezzo di non parlare, ma con questo arbitro qui purtroppo si deve per forza, nel rispetto dell'impegno che hanno messo i ragazzi venendo da giovedì, una trasferta terribile, venire qui in questa maniera e siccome è recidiva la situazione che viene anche da quella di Napoli, dove per la prima volta nella storia c'è stato un calciatore che è stato ammonito per doppia ammonizione, ammonizione e simulazione a 40 metri dall'area, probabilmente non siamo fortunati con quest'arbitro, perciò l'appello che faccio al designatore, se ci risparmia di rivederlo per le prossime volte, ci fa una cortesia. Mentre è probabile invece che Leonardi chiederà di avere ancora, per dimostrare che non ce l'ha con gli arbitri in generale, è possibile che chieda ancora di riavere l'arbitro di Zenit Udinese dell'altra sera, quello che, non avendo visto un calcio di rigore per un fallo di mani clamoroso di D'Agostino sulla linea di porta dell'Udinese, ha risparmiato un rigore e una munizione alla squadra friulana, e diciamo che in questa maniera ha leggermente agevolato la qualificazione dell'Udinese ai quarti di finale di Coppa. Quindi basta con, no, la posizione di Leonardi, basta con Airoldi, e chissà invece che non ci torni questo simpatico arbitro dell'altra sera. La cultura sportiva a caldo, in questo caso a caldo, nell'immediato dopo partita, ma anche a freddo, del nostro calcio è abbastanza nota. Nicchi, Marcello Nicchi, neo l'ANSA lo definisce designatore arbitrale, non è vero, è il presidente dell'AIA, ha commentato che certe esternazioni sono il frutto di tensioni di fine gara, ma dimostrano che c'è ancora da lavorare affinché in futuro vengano fatte in luoghi diversi. Non capisco la battuta, perché non capisco che senso abbia discorsi come questi farli in una sede anziché un'altra. Ha aggiunto Nicchi: presto e probabilmente ogni settimana avremo un posto in cui noi potremo dare le nostre spiegazioni. Altra frase che ne ho sentite di più comprensibili, mentre invece alla fine ha riconosciuto una cosa positiva, ha voluto spendere parole per De Laurentiis, che non si è lamentato del rigore non concesso al Napoli nel posticipo con il Milan, che non è un rigore ma è un gol segnato. Questo dell'Ansa era in forma stamattina. Ho parlato con Matarrese, ha detto ancora Nicchi, per dirgli che ho molto apprezzato l'equilibrio del presidente del Napoli, certamente un po' meno quello degli ultra, che hanno letteralmente assaltato l'auto di Galliani arrivando a bucargli le gomme, insomma creando una situazione di tensione molto grave, per cui sono dovuti intervenire addirittura dei reparti speciali per preservare l'incolumità del vicepresidente del Milan. Sono arrivate anche le scuse del sindaco di Napoli, Erbolino, che definisce gravissima l'aggressione di cui è stato vittima ieri sera Galliani e di cui si scusa come sindaco della città. E non ci solleva il fatto che sia stato commesso da sole da poche decine di persone su tutti quegli spettatori che invece erano allo stadio e che si sono comportati bene. Lo stesso Galliani, in un'agenzia appena battuta, dice: non vorrei tornare sull'episodio di ieri sera, perché sennò poi si enfatizza troppo. Certo, è stato un quarto d'ora molto brutto, e se si fosse rotto il finestrino sarebbe stato davvero peggio. Poi fortunatamente sono arrivate le forze dell'ordine e alla fine non è successo niente, non è successo niente davvero, davvero per poco. Ci saranno tra poco i primi interventi degli ascoltatori, c'è da dar conto dell'ennesima polemica aperta sollevata ieri da Mourinho nel dopo partita a cui stamane sono arrivate già molte risposte. Adesso se ne è occupato anche Massimo Moratti. Ci sono molte dichiarazioni, insomma, sia su questa vicenda che sulla vicenda Ibrahimovic, che lui stesso ha aperto in realtà e ha corroborato ieri, lasciando abbastanza chiaramente intendere che il suo feeling con l'Inter proiettato nel futuro è al momento abbastanza relativo. Tra poco vi darò conto di tutto, sia attraverso dei contributi vocali che attraverso delle agenzie. Sentiamo il primo amico intervenuto oggi, che è Carlo da Genova. Buongiorno. Buongiorno genovano. Buongiorno. Buongiorno. Senta, niente, ho chiamato un attimo perché riguardo alla polemica del direttore, non ho capito se sportivo generale dell'Udinese. Fondamentalmente la trovo abbastanza ingiustificata, perché comunque non fa altro che alimentare sospetti, così polemiche su degli episodi che comunque però non c'entra niente. Cioè, vorrei chiarire ulteriormente che la sua rivalsa è stata nei confronti del comportamento dell'arbitro, che evidentemente già precedentemente nei confronti dell'Udinese si era comportato in modo non idoneo secondo i infatti se l'è presa con l'arbitro, non mi pare. No, certo, perché ho sentito anche da parte di qualcuno, ma facilitazioni per il Genoa. Ma beh, il Genoa se ne è giovato. Dato che io ho sentito molto piangere in passato, come tutti, intendiamoci, come tutte le 20 società italiane, ma nella fattispecie ho sentito anche in tempi recenti lacrime molto calde del presidente Preziosi, dell'allenatore Gasperini, eccetera, ho soltanto noto che nel caso di ieri passare dallo 0-1, ma da un calcio di rigore per l'Udinese con espulsione sacrosanta di Juric a 1-0 al vantaggio di un gol nel giro di un minuto e poi godere di un altro paio di situazioni favorevoli subito dopo da parte di un arbitro che nella migliore delle ipotesi aveva evidentemente perso la Trebisonda, beh, insomma, diciamo che è un vantaggio non da poco, no? Ma come sempre in queste situazioni si accusa sempre soltanto ricevuta dei torti, non dei favori diretti o indiretti che siano, e lo ha dimostrato Leonardi, ripeto, prendendosela con quest'arbitro e tacendo elegantemente sul fatto che la qualificazione in Coppa sia dovuta anche, ma non poco, a un arbitro che non ha visto un fallo di mano sulla linea di porta, niente meno. Grazie Carlo, andiamo in provincia di Bergamo da Valentino, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio che mi ha chiamato. Sì. Dunque, sono un interista, però che scrivono che i giornali che Ibrahimovic quest'anno non sa se rimarrà all'Inter, ma io come interista dico, ma se vuole andare via se ne vada, tanto non è che andare un altro posto, all'Inter è un leader e prende di bei soldini, una società come fa a comprarlo con quei bei soldini lì? Poi abbiamo visto tanti campioni andare via e poi ritornare che sono delle figurine. Perciò se Ibrahimo deve andare via dall'Inter, ma che se ne vada anche lui. Valentino, non è lontanissimo da quello che stamattina ha detto Moratti, perlomeno in prima istanza, poi ha corretto un pochino il tiro. Uscendo dall'assemblea della Federcalcio, Moratti ha detto testualmente: magari Ibrahimovic va da un'altra parte e poi la Champions la vinciamo noi dell'Inter. Nella vita qualche volta si cambia e poi ci si pente. Poi ha corretto il tiro, lui era solo arrabbiato come l'ero io dopo Manchester, ma certo non è così facile scegliere una squadra che vincerà sicuramente la Coppa. Non posso pensare a un Inter senza Ibrahimovic, è parte integrante del nostro tifo, ma se dovesse capitare la società andrà avanti. Allora, magari Ibrahimovic va da un'altra parte e poi la Champions la vinciamo noi. Prima frase, seconda, non posso pensare a un Inter senza Ibra, ma se dovesse capitare la società andrà avanti. Beh, diciamo che in questo momento sono frasi particolarmente significative, direi. Claudio da Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, a lei. Dica. Buongiorno. Senta, stamattina mi sono sentito un po' come un tifoso della Juve, del Milan o dell'Inter, perché dopo la partita di ieri diciamo che l'arbitro è stato parecchio casalingo, ecco. Abbastanza. Però l'intervento era come? Abbastanza, grazie. E segue già un'altra domenica per la completezza dell'informazione in cui una incomprensibile espulsione di Cossu aveva, come dire, non ostacolato la vittoria del Genoa a Cagliari. Premesso questo, io volevo parlare un attimo delle convocazioni in nazionale. Sì. Innanzitutto sono molto contento della convocazione di Bocchetti, che sta facendo un campionato esemplare, oltretutto è passato in un anno dal Frosinone alla nazionale, quindi insomma è abbastanza certo. Importante, però mi chiedo una cosa: come si fa a convocare Foggia, con tutto il rispetto per Foggia che è un ottimo giocatore, e non convocare Cassano? Non lo spieghi lei, perché io sinceramente non l'ho capito. No, buona giornata. Grazie a lei Claudio, deve spiegarlo Lippi, perché non lo capisco nemmeno io, con tutto il rispetto per Foggia che ha delle giornate di vero alto rendimento, però mi sembra che se mettiamo insomma, se paragoniamo questi due giocatori e la continuità dimostrata quest'anno nel corso della stagione, sinceramente non convocare nemmeno Foggia, uno dice vabbè, è un genere di giocatore o di attaccanti che non piace a Lippi, ma convocare Foggia e non convocare Cassano in questo momento significa avere, secondo me, tutta l'arroganza di cui Lippi non si è mai fatto mancare nulla, a mio parere. Convocazioni vergognose, scrive Paola da Napoli, perché nessuno ha il coraggio di dire che Lippi non convocherebbe Cassano nemmeno se si reincarnasse in Leo Messi. Adesso vediamo di non esagerare. Certo è, tutta la carriera di Lippi è costellata da scelte anche coraggiose, se vogliamo, ma scelte che evidentemente si basano su altri presupposti, non su quelli tecnici. Ricordo le difficoltà o le esclusioni sul conto di Baggio ai tempi dell'Inter, ricordo il rapporto con Panucci, per esempio, sempre ai tempi dell'Inter. Adesso questo ostracismo nei confronti di Cassano, che io credo dovrà prima o poi spiegare da un punto di vista tecnico, a meno che le sue motivazioni da un punto di vista invece ambientale e comportamentale siano tali da autorizzare in partenza. Però ecco, è arrivato il momento magari di mettere qualche cosa, di spiegare un pochino meglio. È arrivato il momento anche di ascoltare le dichiarazioni di ieri di Mourinho, che hanno fatto inferocire l'intera categoria praticamente degli allenatori italiani. Sentiamo. La squadra che va in campo faccio io, per esempio. Tanti. Sono tanti che non lo fanno. Il mondo del calcio sta pieno di allenatori così. Se qualcuno mi chiede, il giorno dopo ufficio vuoto e valigia per ritornare a casa. Vi do conto di qualche reazione. Donadoni, è stato poco elegante, poco educato. Mi stupisce come lui possa sapere tutte queste cose nei dettagli. Probabilmente ha voluto buttare lì ancora una delle sue solite frasi ad effetto, che credo che questo non vada a suo pro, ma a suo discapito. Allegri, io con Cellino, col mio presidente, ho avuto diversi confronti durante l'anno, come è giusto che sia, perché lui deve sapere come va l'azienda, ma non si è mai intromesso nella formazione. Capisce di calcio, lo scambio di vedute penso sia giusto, le dichiarazioni fatte da Mourinho però cadono nel patetico. Renzo Olivieri, che ha sempre difeso Mourinho, anzi l'ha difeso in maniera insomma a sparatratto, una volta anche in un appuntamento qui pochi mesi fa. Olivieri ha commentato: Mourinho stavolta l'ha fatta fuori dal vaso. Domandatelo a Lippi, a Spalletti, a Capello, ma anche ad Allegri se qualcuno gli fa la formazione. L'ha fatta fuori dal vaso. Non si trova a suo agio in Italia Mourinho, secondo voi? No, non gli piace che il Cagliari lo metta sotto a San Siro, ha aggiunto ancora il presidente dell'Asso Allenatori. Qualcuno gli ha parlato di stress e lui allora ha risposto: se si parla di stress, io penso agli operai che dalle mie parti vanno a lavorare in conceria. È arrivata poi invece una difesa d'ufficio di Moratti, mi pare, di Moratti, che dice: al di là della polemica divertente con Ancelotti, gli altri stanno rispondendo a Mourinho in maniera seriosa, mentre era un'affermazione che era invece a difesa della dignità degli allenatori. Ormai è una moda arrabbiarsi con lui, ma io non li accontenterò perché Mourinho resterà all'Inter. Carlo ha chiamato la Bari, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti, è sempre un piacere ascoltarla. Grazie. Niente, io volevo dire qualcosa sull'eliminazione dell'Inter. Non pensi che quel cialtrone, come lei l'ha definito giustamente, dovrebbe rassegnare le dimissioni e andarsene, perché ha fallito, ha fatto spendere un casino di soldi al presidente e poi è stato eliminato negli ottavi? No Carlo, non sono assolutamente d'accordo con lei, non vedo perché un allenatore si dovrebbe dimettere perché viene eliminato da una coppa, quando oltretutto è in testa un campionato. I bilanci si fanno alla fine, si fanno i conti, probabilmente Mourinho avrà capito, no? che l'errore è stato commesso in autunno, forse sottovalutando un tantino lui, ma anche i giocatori evidentemente, perché noi continuiamo a pensare che questi Napoleone siano loro che decidono tutto, e a loro fa comodo farlo pensare assumendoli di queste posizioni e da megalomani totali, ma in realtà poi sono le squadre che contano, certamente dietro la loro impostazione, soprattutto per chi ha l'esclusiva di fare la formazione a differenza degli altri colleghi. Là in autunno, con quel secondo posto e una discreta serie di figure pure Barbina, no? con Olympiacos e Anorthosis, si sono poste le basi dell'eliminazione. Io torno a dire che contro il Manchester l'Inter, tolta la prima mezz'ora all'andata, ha giocato con eccellente coraggio, e si è visto poi dalle sconfitte consecutive che il Manchester sta inanellando dopo quella sera, si è visto poi che se poteva fa di eliminarli e di ribaltare la situazione al ritorno. Ci voleva un po' più di coraggio e una mira un po' più precisa da parte del suo uomo chiave. Ma da lì alle dimissioni, questi sono gli eccessi consueti del tifo. Silvio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, sono Silvio della provincia di Milano. Volevo in qualche modo cercare di aiutare gli arbitri italiani, ma non solo, anche quelli stranieri, anche quelli dall'estero, perché vedo che sbagliano anche in Europa. Quindi la mia idea era quella di cercare di rispettarli il più possibile, perché penso che elementi che esprimono, che fanno delle dichiarazioni dopo le partite, fanno molto la differenza a riguardo degli arbitri. Per esempio Donadoni ieri, che avrebbe avuto grandissime ragioni attraverso la moviola di dire che gli hanno annullato un gol regolarissimo a Napoli, ha semplicemente detto che era difficilissimo da vedere al momento. Quindi si può, lei dice, quindi scusi se sintetizzo un pochino perché ci sono molti in linea dietro insomma in coda dietro di lei, quindi si può, certo che si può ed è più facile farlo quando un errore è più facile a proprio danno, è più facile accettare quando è un errore come quello di ieri sera. Chiunque si mette nei panni, chiunque sia in buona fede ovviamente, si mette nei panni di quell'assistente e capisce che stiamo parlando di centimetri, ma davvero di centimetri, di frazioni di secondo, e non si può buttare la croce o non si può parlare di disegno o di chissà che. Io credo che quando un arbitro come Airoldi, ma non un arbitro come Airoldi, ma un arbitro come Airoldi posso invece anche crederlo, per tanti precedenti nefasti nel senso dei limiti tecnici, ma ciò nonostante, quando un arbitro che tra l'altro è alle soglie della pensione, perché mi pare abbia 44 anni e all'ultimo o al penultimo anno di arbitraggio, comunque una grande esperienza, quando un arbitro a 3 metri di distanza, perché se fosse stato tagliato fuori dall'azione, vabbè, dice è lontano e ha l'attenuanti, no, ha delle aggravanti totali, perché a 3 metri dall'azione non può non vedere questo sgambetto e non può pensare oltretutto che Floro Flores si butti a quel punto. Si butta perché? Che è fino a, ne ha dribblati due e se salta il terzo, che aveva già saltato, è davanti al portiere. Cioè, è ridicolo. E quindi questi sono errori di una gravità tale che è più difficile accettarli. Questo sì. Tocca a un romano, Giampiero, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Granzini. Dica. Complimenti innanzitutto per la sua trasmissione, e certo ci sarebbero tanti belli argomenti da trattare. Vabbè, ne avrà scelto uno. Volevo, no? Porre l'accento su due cose che ho notato leggendo il giornale di oggi, il giornale sportivo romano. Il poco spazio che si è dato a quell'episodio, volendo usare un termine eufemistico, increscioso, accaduto a Napoli al signor Gagliani, perché si è riportato solo la notizia di cronaca, e a mio modo di vedere certi episodi andrebbero invece condannati molto severamente. E poi anche il fatto che nella maratona che si è corsa ieri a Roma è stata una bellissima giornata di sport, dove purtroppo c'è stato un morto del quale non si è dato assolutamente risalto. Giampiero, grazie per questo doppio aggiornamento. Sul primo avevamo provveduto, il secondo temo che sia un penoso caso, no? Semplicemente di un malore nel corso di una gara, tra l'altro credo si trattasse di un amatore, non lo so, non sono particolarmente documentato, ma insomma non riesco a capire come si possano accostare due episodi di questo genere a qualsiasi titolo. Abete confermato la presidenza della FIGC per il prossimo quadriennio, percentuale di voti 98,42, alla faccia della Bulgaria, direi, a grandi linee. Eletto ovviamente al primo scrutinio. e quindi la conferma ai vertici della, della Federcalcio. Il messaggio più divertente fino ad ora l'ha firmato Pino da Chieti. No, l'ha firmato Claudio, chiedo scusa. Pino da Chieti scrive: nessuno ha ancora evidenziato il gesto tecnico di ieri di Ibra, e in effetti ieri Ibrahimovic ha fatto un gol credo di difficilissima fattura, perché Ibrahimovic ha dei piedi mostruosi, nel senso della lunghezza e delle dimensioni, non soltanto nel senso della qualità. Quelli erano colpi che una volta ci si aspettava dai giocatori col piede piccolo, no? Il famoso palanca, ma insomma, perché è difficile con un piedone come quello di Ibrahimovic fare un colpo sotto di quel genere. È anche vero che siamo sul 2-0 contro l'ultimo in classifica, però la tentazione di provarci e di riuscirci alla perfezione indubbiamente non è male. No, Claudio invece scrive: tra qualche mese vedremo per chi tifava da piccolo Ibrahimovic dopo Juventus e Inter. Questa mi sembra una sintesi abbastanza felice di quello che sta succedendo. Il pomeridiano Le Sole 24 ore, 24 minuti in distribuzione gratuita a Milano e Roma ogni giorno, ha una tabella da cui risulta che la Spagna, il titolo è La Spagna, la fiera del gol, e la Spagna è una nazione dove si segna di più. La media è di 2.94 gol a partita, e questa media è molto, insomma, a questa media molto contribuisce il Barcellona, che ha segnato 84 gol nelle 28 partite di campionato disputate finora, quindi alla media esatta spaccata di 3 gol a partita attualmente, grazie anche ai sei di ieri. Si segna di più nella Liga, dunque a ruota c'è la Bundesliga, cioè i tedeschi, poi nettamente staccati la Premier League, la Serie A e più staccata ancora il campionato francese. È in linea Ruggero da Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Senta, intanto i soliti complimenti per la sua trasmissione. Lei è un uomo calcisticamente competente. Io però voglio rifarle una domanda che le ho fatto mesi fa, l'unica volta che mi sono collegato con lei. Le dissi: è vero che quando un allenatore va a allenare la nazionale diventa una persona un po' arrogante, un po' presuntuosa, perché si investe di questa parte e non convoca, le dissi allora, parlando di Baggio, non parlo di Donadoni, Berzot, parlo magari del Trapp, di Zoff, di questo qua, e senza dare nessuna giustificazione non convoca, adesso è venuto a Ciliegina Cassano oggi, no? Senza dare nessun motivo per cui non lo convoca, perché io fossi Abete, che è stato appena rieletto, direi, le rilascio un'intervista e dico che Cassano non è in feeling con te, si è comportato male con Gentile nell'Under, si è fatto... Lei mi disse allora che un allenatore quando va in nazionale può fare ciò che vuole perché risponde lui di ciò che fa, dei risultati che ottiene. Ecco, la prego di rispondermi magari un po' meglio dell'altra volta. Beh, Ruggero, io le rispondo esattamente come l'altra volta, nel senso che non credo invece che un allenatore diventi più arrogante quando arriva in nazionale. Lippi questa quota di insomma, diciamo pure anche di antipatia, no? In certi atteggiamenti, in certi momenti direi che se la porta dietro da sempre, insomma, l'ha sempre più o meno, ce l'ha in dotazione. Non mi pare che sia molto cambiato da questo punto di vista. Io penso che lui abbia delle ragioni abbastanza precise per questa scelta. Può anche darsi che aspetti una conferma della maturazione di Cassano. Non c'è dubbio che questo giocatore si stia comportando da mesi ormai in maniera completamente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati, e però insomma, dato che tecnicamente Cassano non è da scoprire, no? Perché mi pare che stia facendo oggi con più continuità delle cose che più o meno ha sempre fatto, persino meno, perché 10 anni fa i colpi di quando venne alla ribalta davvero, i primi tempi di Roma faceva cose anche secondo me superiori a quelle di oggi. Adesso sono più continue, sono più frequenti. Può darsi che, conoscendolo così bene e non dovendo più scoprire nulla tecnicamente, stia semplicemente aspettando delle conferme caratteriali nel tempo. L'obiettivo evidentemente è quello del 2010, del mondiale. Poi è indubbiamente singolare che così come viene riconosciuto a Pazzini nel giro, cioè a Pazzini sono bastati 2 mesi, no? di gol e di prove da grande, davvero grande attaccante, per finire in nazionale è abbastanza curioso che Cassano, che così sta giocando forse anche da un po' più di 2 mesi quest'anno, Cassano invece sia fuori. Ma è anche vero che Cassano nell'ambiente azzurro è già conosciuto, certamente più di Pazzini, che invece va testato. Daniele da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica Daniele. Volevo rimanere in tema nazionale per aggiungere quello che diceva lei, che comunque nella sfida con l'Irlanda forse questa coppia affiatata Cassano-Pazzini ci potrebbe far comodo, ma soprattutto per io non ho seguito particolarmente la stagione del Genoa, ma volevo sapere qualcosa di più di questo difensore Bocchetti che è stato convocato per la prima volta. L'ascolto per radio. No, lo ascoltiamo domani da Lippi, ci faremo raccontare domani, insomma, registreremo la sua conferenza stampa di inaugurazione di questo mini ciclo azzurro che comprende sabato in Montenegro e mercoledì prossimo l'Irlanda, di Trapattoni a Bari, Montenegro in trasferta, l'Irlanda in casa, e sentiremo direttamente dalla viva voce del commissario tecnico il perché di queste scelte e magari anche il perché di qualche esclusione, che spiegazioni le dia io, sinceramente mi sembrerebbe un colpo di megalomania, insomma, spiegazioni da lui, e poi eventualmente si commentano le sue spiegazioni. Carlo, provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno, sì, pronto? Dica. Buongiorno, io volevo fare un ragionamento rispetto alla troppa enfasi, secondo me, del 4-1 della Juve a Roma. Dal momento dei cambi di Spalletti, io nel vedere la partita con amici ho detto: sono un simpatizzante romanista, si prendono 3 gol per il semplice fatto che si restava con 4 punte, di cui una ferma, praticamente mi riferisco a Battista, con un centrocampo con nessun ruolo era logico che si prendessero 3 gol. Ci stava a perdere, però sui cambi Spalletti ha dato una mano alla Juve. Detto questo, me ne torno a imbottigliare il mio Trebbiano Spoleto. L'ascolto per che è meglio, Carlo, che credo sia un'attività più piacevole, più redditizia. Sinceramente credo che la Roma fosse segnata comunque l'altra sera, perché anche alla Juventus mancavano parecchi giocatori, ma la Juventus ha ricambi migliori, sinceramente, soprattutto dal punto di vista temperamentale. Questo sarà anche un merito dell'ambiente, della società, del tecnico, ma insomma questo c'è. Io credo che la Roma senza, insomma, già la Roma senza Totti e De Rossi siamo su 40-50% in meno, secondo me. La Roma senza quegli ulteriori pezzi che le mancavano l'altra sera non è non è assolutamente una squadra competitiva, non è una squadra che possa reggere a una Juventus così motivata. Tutto dipende per la Roma sul quando riuscirà a recuperare perlomeno alcuni di questi giocatori, ma certamente quei 2-3 chiave, o ad avere in buone condizioni fisiche vere i Vucinic o questi altri che non sono giocatori chiave ma ci arrivano vicino. In questo caso io credo che la lotta per il quarto posto sia apertissima, perché la Roma è in grado, come ha già fatto nel girone d'andata, di mettere insieme un filotto vero, ma se non recupera questi uomini credo proprio di no. Da Napoli ha chiamato Emilio, buongiorno. Sì, salve. Dica. Sente? Certo, forte e chiaro, le ripeto. Volevo un attimo precisare quello che è successo ieri sera allo Stadio San Paolo, dove io ero presente. È vero che quando sono entrati i tifosi del Milan, circa un centinaio, appena sono entrati hanno lanciato dei razzi nei confronti della curva. Allora, questo mi collego all'ascoltatore che si è collegato precedentemente, perché è vero che sono da condannare certi episodi come quello che è successo a Galliani, però è altrettanto vero che la stampa nazionale, i media in generale, in questo momento hanno come sport preferito quello il bersaglio contro Napoli e, nel caso dello sport, i tifosi napoletani. Fantastico. Perché se fanno l'errore quelli che non vivono in Italia a dire che gli italiani sono tutti mafiosi, è altrettanto vero che chi non vive fuori Napoli sa che a Napoli non sono tutti malviventi. Quindi la prego di andare un attimo a prendere il giusto equilibrio, come lei normalmente fa, nella valutazione di questi episodi. Allora, grazie. Emilio, visto che lei ha chiamato in causa la stampa nazionale, le leggo il resoconto pubblicato stamane del Corriere della Sera, che non mi sembra sia editato a Napoli. Decimo nel primo tempo, in campo non è ancora successo nulla, già gli spalti si infiammano. Cominciano i sostenitori del Milan, che in tribuna laterale accendono un paio di fumogeni e li lanciano verso la curva A. Inizia la battaglia. Dal settore agli ultras del Napoli rispondono subito. Le sembra una cronaca poco obiettiva? Mi fermo qua, perché il resto sono resoconti di immondizie. Immondizie nel senso di... No, di porcherie di cui siamo sazi, sinceramente, per arrivare poi a quell'episodio invece per certi versi abbastanza inedito, gravissimo, che ha chiamato in causa Galliani. Ma non mi sembra che i resoconti della stampa nazionale siano quelli che sta dicendo lei. Il ripasso di storia affidato come ogni giorno a Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 marzo 1969. Il tecnico del Torino Edmondo Fabbri fa debuttare dal primo minuto un attaccante nemmeno diciannovenne. È Paolo Pulici, destinato a diventare il bomber più prolifico nella storia granata. Dopo lo 0-0 della partita d'esordio contro il Cagliari, segnerà la seconda apparizione, due settimane dopo a San Siro contro l'Inter, il primo dei suoi 134 gol in campionato con la maglia del Torino, con cui ha vinto lo scudetto del 76 e due Coppe Italia. Pulici si è aggiudicato per tre volte il titolo di capocannoniere e ha formato con Ciccio Graziani uno dei tandem d'attacco meglio assortiti nella storia del calcio italiano. Beh, non so se questo Amar Cordi in chiave granata servirà da balsamo ai tifosi del Torino particolarmente avviliti in questo momento, oppure se non sarà invece altro sale sulle ferite a pensare di chi gioca oggi con la maglia del Torino, soprattutto in attacco, e chi ci giocava un tempo, per esempio uno che si chiamava Paolino Pulici. Giulio ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, ogni tanto riesco a sentirla anche telefonicamente oltre a scrivere le mie puntuali mail. Una cosa riguardante il discorso di ieri degli allenatori eleganti o meno, io trovo che ieri sia da rimarcare l'eleganza con cui Ballardini ha commentato le istigazioni quasi che riceveva da Cesari in diretta. La domanda che è stata fatta era: ha visto l'espulsione dopo mezz'ora, l'ha rovinata la partita? Lui ha risposto: il Palermo non ha giocato da Palermo, e lei è stato un arbitro con un sorriso molto elegante verso Cesari. Sprecato, quindi, no? A così gli ha detto. Dovrebbe pensare ad aiutarlo, no? Aiutare i suoi ex colleghi, non a massacrarli. Ecco, Ballardini con un sorriso ha detto in questo modo. Questo è un vero esempio, a mio avviso, che si conferma da tanti mesi e spero si confermi anche nei prossimi anni, anche in questo, sempre che a Palermo gli lascino fare anche questo. Ecco. Grazie. Giulio, la ringrazio molto per questa segnalazione. Un'altra è una decorazione in più che viene ad aggiungersi a quella che Ballardini già si è meritato lo scorso anno a Cagliari e in questi mesi di Palermo per la sua educazione sportiva, per la sua civiltà. È indubbio. Poi certo dall'altra parte c'è Cesari, quindi è ovvio che se parliamo di belle figure non è vincere ma è stravincere, persino troppo facile. Però no, non è così semplice a caldo rifiutare, anzi è rarissimo, lei ha ragione, rifiutare l'appiglio di salvagente che ti viene porto, sapendo che comunque poi di alibi il primo a non dartene sarà il tuo presidente, che difatti non ha nemmeno lasciato finire la partita e ha cominciato a sparacchiare a zero che era tutta colpa di Ballardini, indipendentemente dall'intervento di Cesari o Cesari. Francesco da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo intervenire sul discorso di Cassano e la nazionale. Sì. Veramente io sarei curioso di pensare una cosa: se Cassano viene convocato in nazionale, va in nazionale una partita che viene vista da tutto il mondo, e questo inizia a fare le corna all'arbitro o inizia a dirgli all'arbitro ti aspetto fuori. Io non lo so che bella figura si fa in giro per il mondo. Beh, certo, no, non bellissima, se partiamo da questo presupposto, non particolarmente bella. È un bel po' di tempo che non succede. Può anche darsi che Lippi di questo non, esattamente di questo non si fidi ancora. Può darsi che essendo questo giocatore indubbiamente stato da sempre una variabile impazzita, può darsi per l'appunto che Lippi aspetti altre conferme, no? nel tempo. Così come può darsi che tecnicamente non rientri poi nei suoi piani, perché io oggi credo che una convocazione di Cassano e magari anche la coppia Cassano-Pazzini in questo momento, stanti altri infortuni di altri giocatori, credo ci potrebbe anche stare, si potrebbe fare un pensierino. Però tutti i cassaniani che chiamano e che si esprimono come se quella nei confronti di Cassano fosse una congiura, beh, pianino, perché non è che Cassano non ha avuto le sue chance in nazionale, ne ha avute anche negli ultimi europei, e la mai ciapada, come si dice, non al di sopra del fiume Po, comunque da queste parti milanesi, l'ha proprio presa a pochino. Non è stato l'unico, ma se parliamo di Salvatore della Patria, l'ultima occasione seria di mostrarsi tale, di confermarsi tale, l'ha avuta che non è passato nemmeno un anno, anzi manca un bel po' al primo anniversario. Quindi può darsi che anche questo elemento faccia parte delle valutazioni di Lippi. Da Udine ha chiamato Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo intervenire brevissimamente per quanto riguarda la questione dell'arbitraggio in Genoa-Udinese da parte di Airoldi. Lei, secondo me, ha citato correttamente diciamo il fatto che nel calcio si danno e si prendono sia le botte, diciamo, che i favori, come posso dire, volontari e involontari dal punto di vista degli episodi. Non sono molto d'accordo invece sul parallelismo che lei ha fatto, nel senso che la mano in piena area di D'Agostino è vero, è stata decisiva, ci ha sicuramente giovato, c'era sulla mano, però non è stata inserita all'interno di una linea di arbitraggio che io purtroppo ho visto ieri, che secondo me, anche non dal mio punto di vista che può essere parziale comunque di tifoso dell'Udinese, ma da un punto di vista più oggettivo, più generale, è stata purtroppo continuativa, nel senso che il rigore non è stato dato, una serie di azioni che avrebbero potuto confluire in una maniera magari più decisiva sono state bloccate per una non applicazione della regola del vantaggio. Cioè, è stato il mio punto è sulla linea dell'arbitraggio di questo signore, insomma, che... La capisco, quello che lei dice è saggio e ha anche un fondamento. Io dicevo, però lei è un tifoso, un dirigente, io credo che dovrebbe comportarsi in maniera più responsabile. Tutto qua. Roberto da Piacenza, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Eccomi qua. Allora, intanto a proposito di quorum, no? Di cui parlava l'ascoltatore precedente di Cassano, cioè evitiamo di cadere sempre in queste forme di perbenismo, perché altrimenti dovremmo parlare anche dello sputo di Totti a Paulsen e non ne usciamo più. Detto questo, io volevo dire una cosa su Lippi. La sensazione, premetto che non mi interessa chi convoca, perché voglio dire, immagino che convochi i giocatori che a lui fanno più comodo, perché non credo che nessun allenatore si faccia del male, però mi sembra che non abbia ancora metabolizzato una cosa molto importante, che l'Italia è l'espressione della squadra nazionale, quindi è un pochettino di tutti. Detto questo, le convocazioni non dovrebbero assolutamente essere inficiate da problemi personali. Su questo non c'è dubbio, Roberto, la stoppo perché abbiamo esaurito il tempo, anzi siamo già leggermente... tra una subordinata e una coordinata siamo già leggermente oltre. Grazie anche del suo intervento, grazie a Rudy in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani.